prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Riprende anche il percorso con la Caritas e dunque con l'inizio dell'anno torniamo ad occuparci delle attività delle nostre Caritas diocesane con l'apertura dedicata a quella di Padova. Il saluto che va a Giorgio Pusceddu. Ciao Giorgio, ben trovato. Buongiorno, ciao a tutti. Grazie, buon anno ancora a te e a tutti gli amici della Caritas di Padova. Anno che è iniziato appunto insieme alla Caritas. Tu stesso ne avevi parlato ai nostri microfoni prima della pausa natalizia. Com'è andato il Capodanno? È andato benissimo. Abbiamo vissuto un momento, l'unica parola che mi viene è speciale. Vi racconto poco del successo perché vale la pena. Abbiamo ricevuto tantissime adesioni a questa iniziativa che si è tenuta appunto il 31 dicembre. Alla fine abbiamo costruito una festa con 150 persone. Tutti insieme abbiamo iniziato dalla mattina a preparare sia la sala del cenone che poi si è tenuto la parrocchia di San Carlo, sia nell'organizzare le attività che abbiamo portato in quattro realtà del territorio di Padova, cioè Casa Maran, Casa Mamma Romana, Casa Santa Chiara e l'Opera della Provvidenza di Sant'Antonio, in cui abbiamo portato nel pomeriggio con dei gruppi di volontari che hanno dato disponibilità per l'occasione un po' di festa che ha portato un po' di energia in più alle attività già organizzate da queste strutture. È stato quindi un pomeriggio di incontro in cui persone che venivano da storie diversissime hanno incontrato le persone ospitate in queste case, quindi persone che avevano problemi psichiatrici o persone con disabilità o dei malati in stadio terminale, degli incontri che hanno regalato a tutti, non solo da una parte, delle grandi emozioni, grandi ricchezze, dei grandi doni. E infatti vedere già il ritorno nel pomeriggio di questi gruppi che sono usciti fuori ci ha fatto capire che c'era il motore giusto, poi confermato alla fine della serata e nei giorni successivi, perché si è creata un'alchimia, una magia particolare che non saprei dirti neanche da cosa è venuto fuori, un incontro di ricchezze che si sono trovati tutti insieme in questo grande salone. Eravamo un 100-150, tra cui insomma alla fine erano tutti persone da diverso tipo, missionari, un gruppo di ragazzi volontari, qualcuno che non ha mai avuto esperienze di volontariato, gli ospiti delle accoglienze invernali che abbiamo invitato a cenare con noi, insomma è stato un gran, perdonami il termine, minestrone di persone che è stato la ricchezza di questo evento, e alla fine ci conferma che organizzare festa in questo modo qua, una festa aperta in cui tutti sono accolti, in cui tutti possono portare il loro e in cui non ci sono differenze, non ci sono ricchi e poveri, ma ci sono solamente persone che condividono, ecco, questa è la grande forza di un'iniziativa del genere. E siamo contentissimi perché adesso continuano ad arrivare mail di piccoli doni che si sono verificati quel giorno, che noi non immaginavamo neanche, ma che appunto questo minestrone ha portato su. Piccoli incontri, piccole sorprese, piccoli miracoli, le speranze donate, una parola che ha colpito il cuore, ecco. Stiamo ancora raccogliendo questi ritorni. Ecco, relazioni che poi evidentemente si sono instaurate e possono continuare nel resto dell'anno. Capodanno è un evento singolo, ma c'è un inverno che è ancora lungo, tra l'altro sta per tornare il freddo pungente, e continuano anche le vostre iniziative per l'accoglienza invernale. Sì, perché Capodanno è una porta d'ingresso per tante cose, tra cui non ultimo appunto le possibili esperienze di volontariato che sponsorizziamo, e tra queste segnalo in particolare appunto le accoglienze invernali, in cui i volontari possono dare la loro disponibilità per accogliere la sera chi vive in strada in questi momenti di difficoltà, in alcune strutture messe a disposizione dalla parrocchia. I volontari in sostanza si occupa della fascia serale, cioè dell'accoglienza, quattro chiacchiere, un tè caldo, un panino, e all'interno di questa struttura poi si dà disponibilità, in alcune di queste può anche dormire la sera in alcuni appunto letti messi a disposizione per fare un'esperienza anche notturna di volontariato, ma il minimo ecco è stare lì la sera con gli abitanti della strada per due o tre orette, un'esperienza che di vero incontro, in cui non c'è bisogno di competenze specifiche o grandi conoscenze, ma solo della voglia di mettere a disposizione un po' di tempo per questa iniziativa. Ecco, ricordiamo il riferimento con tutti i contatti appunto sul sito ufficiale caritaspadova.it, esatto, per dare la propria disponibilità per questa iniziativa. prossimo tuo. Rubrica in collaborazione con la Caritas. Nel 2011, molti lo ricorderanno, insomma, abbiamo tutti compilato famiglia per famiglia il censimento della popolazione. Anche la Caritas diocesana di Padova si è attivata per fare il proprio censimento a livello territoriale. Ormai i dati, Giorgio, sono quasi pronti? Sì, sono arrivati risposte da quasi tutti i vicariati. Adesso li stiamo mettendo insieme e compilando le mappe interattive che poi pubblicheremo nel sito, in modo che possano essere visibili a tutti, usufruibili queste informazioni molto interessanti anche sulle varie realtà di servizio di solidarietà ecclesiale che ci sono nelle nostre comunità, spesso sconosciute, a volte non coordinate tra loro, ma insomma questa è un'iniziativa che cerca anche di fare, di mettere delle basi conoscitive per poi migliorare gli stessi servizi. Ecco, puoi darci qualche anticipazione, poi i dati li vedremo, ma qualcosa di significativo che vi ha colpito? In questo momento non abbiamo ancora l'estratto, diciamo, dei sintetici. Abbiamo analizzato vicariato, perché l'inserimento dati avviene uno per uno. Non saprei dirti in questo momento che cosa c'è di interessante, però quello che ha colpito me è che insomma c'è stata una risposta di tanti vicariati che si sono mossi perché hanno reputato questa iniziativa importante, ecco, non solo per far conoscere fuori, ma proprio per ragionare insieme anche loro su che cosa c'è di attivo e quindi migliorarlo. Ecco, il concetto di cui si parlava in una delle primissime puntate anche col direttore Don Luca Facco, il concetto della rete anche a livello diocesano, a livello vicariale, a livello parrocchiale, lo dicevi tu stesso, ci sono magari tantissime realtà che però spesso rischiano di viaggiare da sole o poco coordinate, e proprio il tema della rete sarà al centro del prossimo convegno. Esatto, sì, perché alla fine stiamo costruendo, stiamo lavorando, stiamo progettando intorno a questa dimensione, quella delle relazioni, quella della comunità che costruisce relazioni. Allora abbiamo pensato di dare un contributo anche culturale con il convegno che semini sempre in questa direzione, convegno che vedrà degli ospiti importanti parlare appunto di rete con diverse accezioni da un punto di vista insomma che tocca la sociologia e anche lo spirituale, e vedremo appunto in questo appuntamento del 23 febbraio presso la Scuola della Carità in via San Francesco un evento per riflettere insieme su questa dimensione che riteniamo fondamentale, costruire insieme le reti. Ecco, il 23, allora segnatevelo già in agenda per tutta la giornata. Mattino, sì, mattino. Sì, siamo del mattino soprattutto, sì. Dalle 9 alle 12. 23 febbraio, dunque, mettetelo in agenda. Per tutti gli ulteriori dettagli, poi ci sentiremo nella prossima puntata. www.caritaspadova.it per entrare in questo mondo e magari poter dare una mano, magari poco, però è utile per tutti. Grazie a Giorgio Puscetti della Caritas di Padova e buon proseguimento. Grazie a voi, buona giornata. Avete ascoltato? Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.